Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Ne avevamo parlato a Mr. Kilowatt ormai un paio d'anni fa e ci torniamo sopra questa sera, perché nel frattempo la tecnologia è andata avanti e i risultati che auspicammo allora sono sempre più a portata di mano. Parliamo delle pompe di calore ad assorbimento. Imparate, memorizzate questa definizione. Si tratta di apparecchi che utilizzano l'energia termica presente nell'ambiente, può essere presa dall'aria, dall'acqua, dal suolo, anche quando sono freddi, per alimentare un sistema di riscaldamento. Esattamente ciò che fanno le cugine di queste pompe di calore assorbimento, cioè quelle elettriche. Ma quelle ad assorbimento, anziché consumare elettricità, sono alimentate da calore, che può essere prodotto con il sole, per esempio, piuttosto che bruciando del gas come si fa in una caldaia. Le possibilità sono molte da questo punto di vista. Ne parlammo 2 anni fa perché si trattava di una tecnologia molto promettente, non solo perché è una tecnologia efficiente, ma anche perché è capace di sfruttare per funzionare anche, per esempio, i cascami di calore, i residui di calore prodotti da tante attività umane, e poi il gas, appunto, che è una fonte di energia primaria. Un vantaggio, già questo non da poco, che cerchiamo di spiegare subito con l'aiuto del professor Mario Motta, che è docente del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano ed esperto di tecnologie energetiche a basso impatto ambientale. Buonasera Motta. Buonasera. Allora, energia primaria, intanto che cos'è, perché è un vantaggio utilizzare questa, o in molti casi lo è? Diciamo che energia primaria è l'energia che non ha subito trasformazioni. Per cui, facendo riferimento per esempio alle cugine, le pompe di calore a gas, cioè le pompe di calore elettriche utilizzano energia elettrica che è stata prodotta sfruttando una fonte primaria, per esempio in Italia spesso gran parte il gas, carbone. Ecco, e dell'energia contenuta in questa fonte primaria nel processo di trasformazione se ne perde una buona parte, più o meno i 2/3, e noi riusciamo a utilizzarne sotto forma di energia elettrica 1/3. È qui che è situato il problema. Sì, nel senso che se per fornire l'utenza usando una caldaia io utilizzo un certo quantitativo di gas, nella soluzione che utilizza le pompe di calore elettriche è importante che il quantitativo di gas utilizzato a monte della catena per produrre energia elettrica non sia superiore a quello che si usa nella caldaia. Se no, tanto vale usare la caldaia. Ed è qui che appunto abbiamo uno dei possibili vantaggi di queste pompe di calore ad assorbimento, perché in pratica alla peggio si comportano come delle caldaie. Sì, esiste anche una differenza legata alla modalità di funzionamento di questi sistemi. Le pompe di calore a gas, se utilizzano per esempio come sorgente l'aria, che ha una certa variabilità di temperatura, fluttuazioni molto forti, sono meno soggette a variazioni delle prestazioni di quanto non lo siano le pompe di calore elettriche. Cioè, quando la temperatura scende molto, mentre con l'acqua e col terreno è difficile che questo accada, perché sono sorgenti che di solito hanno una temperatura abbastanza costante nel corso dell'anno, no? Abbastanza costante e poi tendenzialmente sull'anno anche superiore in media. E quindi lì elettrico o pompa di calore a assorbimento praticamente non cambia nulla. Un altro aspetto importante invece è legato al costo dell'energia elettrica, che è particolarmente alto in Italia, lo sappiamo bene. Il tema del costo si aggancia non solo alla prestazione della singola macchina, ma alla prestazione del sistema nel suo complesso. I fattori di prestazione stagionale di questo tipo di sistemi possono variare molto in base al tipo di installazione. Se il sistema è ottimizzato, si riescono a ottenere dei risultati anche in termini economici significativi, altrimenti se la fonte è energia elettrica la differenza di costo diventa significativa. Insomma, può essere che da un punto di vista energetico il bilancio sia anche positivo usando le pompe di calore elettriche, ma non è detto che lo sia dal punto di vista economico, perché l'energia elettrica appunto costa parecchio. Altri vantaggi, mi pare, temperature elevate di funzionamento. Sì, e questo si ricollega molto al tipo di applicazione, nel senso che nel caso di riqualificazione di edifici esistenti, cioè di edifici in cui non si interviene in maniera pesante sui sistemi di emissione e distribuzione sull'impianto di riscaldamento, insomma, si lasciano i termosifoni magari? Esatto, generatori come le pompe di calore a gas hanno un vantaggio importante, perché la loro prestazione non decade come decade invece quella delle pompe di calore elettriche. All'aumentare della temperatura dimandata, cioè allora, se dovete scaldarci un termosifone avete bisogno di 60-70 gradi e lì la pompa di calore elettrica fa fatica, consuma tanta energia elettrica. Esatto. Ultimo. Mentre sul nuovo, dove esistono superfici radianti, quindi pavimenti radianti o sistemi nel caso del terziario a soffitto, il vantaggio è minore. È certamente minore. Ecco, io che lo ammetto, sono un grande fan di questa tecnologia, così lo dichiaro. Un altro aspetto importantissimo che ci vedo è minori complicazioni per la rete elettrica. Motta, le faccio sentire che cosa dice a questo proposito Stephen Marland, che è capo dei progetti di ricerca di National Grid, che è la compagnia inglese che gestisce la rete elettrica e quella del gas, e che ho intervistato qualche tempo fa. Ascoltiamo. Il progetto di ricerca è iniziato un paio di anni fa. Abbiamo simulato diversi scenari. Per esempio, cosa sarebbe accaduto sostituendo gran parte delle normali caldaie con sistemi a cogenerazione, che producono contemporaneamente energia elettrica e calore. Un secondo scenario riguardava l'ipotesi di transizione dal gas all'elettricità. In pratica, parliamo di sostituire le normali caldaie a gas con pompe di calore. In pratica parliamo di sostituire le normali caldaie a gas con pompe di calore elettriche. In pratica parliamo di sostituire le normali caldaie a gas con pompe di calore elettriche e di sostituire la mobilità tradizionale con quella elettrica. Ebbene, in questo caso le nostre simulazioni ci dicono che la domanda di energia elettrica aumenterebbe da 3 a 7 volte e questo, detto in parole povere, ci costringerebbe a rifare la rete elettrica. Ecco Motta, mi pare che studi di questo genere in Italia non esistano e che questo aspetto non venga trattato sostanzialmente. Che io sappia non ce ne sono. Sicuramente sono studi di una certa complessità, però cominciamo a essere vicini al punto in cui risulta veramente necessario effettuarli. Va bene, grazie Motta, ma non abbiamo finito di parlare di questo argomento, quindi ci risentiamo domani, vero? A domani quindi. Appuntamento a domani.